mezzo alle pubblicità degli uomini belli e potenti, gli uomini ricchi e potenti. Attenti ai denti, in questi tempi vincono le ipocrisie, le bugie. Se ti stringe forte, non sai più sognare. Non resta altro che comprare, ricomprare sempre di più. Magari se riesci entri pure negli ambienti autolocati. Se conosci deputati e magistrati, potrai legalizzare anche queste stupide bugie.